2024 di Enrico Pagliarini. Alle 15.40 inizia una nuova puntata di 2024, bentornati, grazie a Fabio Cantadori che oggi si occupa della parte tecnica. Io sono Enrico Pagliarini, anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Potete comunicare con noi chiamandoci al nostro numero verde 800-24-0024 oppure scrivendoci un'email 2024@radio24.it, scrivendo anche su Facebook i vostri commenti, ci trovate cercando appunto 2024. Saluto Roberto Liscia che è presidente di Netcom, il consorzio del commercio elettronico italiano. Benvenuto, o meglio, bentornato a 2024. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Parliamo di commercio elettronico perché questa settimana assieme alla School of Management del Politecnico di Milano voi avete un osservatorio sul commercio elettronico che ci ha fornito alcuni risultati con innanzitutto un numero che ha il segno positivo ed è una cosa interessante per il mondo di internet. Il commercio elettronico cresce, c'è stata un po' di crisi un anno fa, giusto? Un anno fa c'è stata una crisi che era ingenerata dalla crisi economica italiana e malgrado la crisi il commercio elettronico ha avuto comunque un mantenimento del suo livello di fatturato. Negli ultimi due anni c'è stata una crescita, però dopo questa crisi di due anni fa, diciamo più che dell'anno scorso, di due anni fa, c'è stata una crescita del 15% e si prevede quest'anno un incremento del 20%. Di fatto la probabilità è che quest'anno si arrivi a 10 milioni di persone che su internet comprano, oggi siamo a 9 milioni, un dato comunque molto molto interessante. E questi 9 milioni nella ricerca che abbiamo fatto anche con sia col Politecnico ma in particolare con Contact Lab abbiamo visto che gran parte di questi 8 milioni di clienti sono clienti che ritengono molto soddisfacente questo canale, quindi c'è stata un'inversione di tendenza della percezione di come questo canale serve il cliente, non è più soltanto un problema di prezzo ma anche di servizio. Quindi potremmo dire che chi utilizza il commercio elettronico, poi vediamo che cosa compra perché anche qui ci sono molti dati, molti trend interessanti, diciamo chi compra continua, diventa un cliente fiducioso in questo nuovo canale? Assolutamente sì, questa ricerca che dei dati di comportamento dei clienti che abbiamo fatto la scorsa settimana con Contact Lab mette in evidenza un dato che mi ha particolarmente sorpreso: il 20% dei clienti che sono entrati da meno di un anno compra più di 20 prodotti durante l'ultimo anno, che vuol dire che è aumentata in maniera esponenziale la frequenza di acquisto. È come se ci fossero due taglie, 9 milioni di clienti che sono sempre più contenti, che comprano sempre di più, che si informano sempre di più online, il resto dell'Italia che sta a guardare. Questo è un altro degli effetti del digital divide, non c'è solo il digital divide perché magari io non posso avere una connessione ad internet veloce vicino a casa mia, ma perché utilizzo poco o male questi servizi e non riesco a capire come approfittare di internet in generale. Mi sorprende sempre sapere che, ad esempio, cresce moltissimo la vendita di abbigliamento online e in generale di prodotti. Capisco che alcuni prodotti sono facilmente identificabili, non serve andare in negozio per provarli, toccarli, eccetera, eccetera, ma sembrerebbe più normale che fossero i servizi ad essere venduti. Invece crescono molto i prodotti, tra l'altro in Italia siamo ancora indietro, negli Stati Uniti addirittura metà o forse ancora anche di più online vengono venduti prodotti più che servizi. Sì, è proprio così, l'Italia è rimasta molto indietro. L'Italia è quella che poi non ha sfruttato la vendita per corrispondenza negli anni Ottanta per paura che il prodotto fisico non arrivasse, tant'è che su internet si sono sviluppati i prodotti non fisici, quelli virtuali, e l'Italia da questo punto di vista è molto anomala. Più del 60% delle vendite si fanno di prodotti turistici, assicurativi, dischi, musica, mentre i prodotti fisici non venivano venduti. Negli ultimi due anni c'è stata un'inversione di tendenza e l'abbigliamento è stata una sorpresa per tutti noi, crescite che negli ultimi anni hanno visto più del 50% di incremento, alcuni siti hanno fatto quest'anno più del 200% di incremento, perché gli italiani hanno scoperto la comodità di poter comprare un prodotto conosciuto, un paio di occhiali piuttosto che un paio di pantaloni, un paio di scarpe, sapendo, e questo è un tema di conoscenza delle regole, che se il prodotto non è fungibile o non è di gradimento, nei 10 giorni dall'acquisto acquisto può essere rimandato indietro. Quindi grande soddisfazione, grande servizio, grande semplicità, il prodotto a casa la sera quando uno torna dall'ufficio. E la stessa cosa è successa per i libri, nessuno si aspettava un incremento del 18% dei libri, del 12% degli elettrodomestici, quindi i prodotti sono la grande scoperta e l'inversione di tendenza di quest'anno che avvicinerà, speriamo, l'Italia a quello che è successo negli altri paesi europei e negli Stati Uniti. Adesso ci fermiamo per un minuto, ci sono le notizie che arrivano da strade e autostrade, 2024 vi aspetta tra poco. 2024. Stiamo parlando di commercio elettronico a 2024, più tardi parleremo di un altro dei grandi fenomeni del momento, dei tablet, degli smartphone, anche in questo caso ci sono alcuni numeri che ci raccontano come va il mercato e quindi partiremo proprio da questi numeri e anche da alcune novità. Stiamo parlando di commercio elettronico con Roberto Liscia, che è presidente del Consorzio del Commercio Elettronico Italiano. Abbiamo detto che, stranamente per me, perché io preferisco andare nel negozio per provare i vestiti, ad esempio sulle camicie ho sempre un po' di, insomma, ho molti problemi, però a proposito di prodotti, ad esempio abbigliamento in generale, un grande boom c'è stato anche in Italia dei gruppi d'acquisto. Adesso probabilmente molti ascoltatori conosceranno Groupon, ma non è l'unico, perché mi sembra che, anzi sono sicuro che negli ultimi tempi molte aziende italiane hanno concentrato l'attenzione su questo fenomeno, che è una sorpresa o no? È una sorpresa che ci ha colti tutti impreparati, come è stata la sorpresa della crescita delle vendite dell'abbigliamento, questa delle vendite dei prodotti del dettaglio, soprattutto nel settore dei servizi, massaggi piuttosto che sauna, piuttosto che bellezza, piuttosto che servizi alberghieri con servizi sulla salute, sono stati una crescita vorticosa che ha visto entrare in Italia i grandi gruppi internazionali. La cosa che mi ha sorpreso è che pensavo, quando abbiamo fatto l'analisi, che ci fossero 3 o 4 gruppi presenti in Italia. In realtà si sono sviluppati negli ultimi mesi 18 operatori che vendono questo servizio. Ricordiamo che il gruppo d'acquisto funziona in che modo? Funziona in maniera semplicissima. Ogni mattina sul vostro PC, ma anche sul telefonino, sullo smartphone, vi arriva un'offerta per comprare un servizio in una pizzeria, in un ristorante o in un servizio di bellezza o in una sauna al 50% del prezzo che normalmente questo punto di vendita fa normalmente alla sua clientela. E la ragione per la quale questo avviene è che con questo mezzo il ristorante piuttosto che la sauna riesce ad incrementare il numero dei suoi clienti, a far sapere ad altre persone locali vicino al suo punto di vendita che esiste quell'esercizio, che fa un buon servizio, e quindi è uno straordinario mezzo per l'esercente per fare della promozione a poco prezzo, perché a lui non costa fare investimenti pubblicitari, praticamente dando un servizio che probabilmente non avrebbe dato, perché normalmente questi servizi non sono mai saturi, non hanno mai il 100% di saturazione, quindi il costo per l'esercente è molto basso, il vantaggio di creare conoscenza al pubblico è estremamente elevato e naturalmente è straordinariamente utile e interessante per il consumatore poter comprare questi servizi al 50%. Pensate, visto che a 2024 parliamo spesso di servizi basati sulla posizione, quindi servizi geolocalizzati, pensate alle potenzialità, ad esempio, di questo fenomeno quando tutti avranno uno smartphone e accetteranno di essere geolocalizzati. Io passo davanti ad un ristorante, magari il ristorante ha 10 posti liberi e mi manda l'offerta automaticamente. Quindi questo sicuramente è un grande vantaggio. 18 sono i gruppi d'acquisto, più stranieri o italiani? Perché poi nel commercio elettronico c'è questo, non so se chiamarlo problema, c'è anche l'opportunità degli operatori italiani di costruire una piattaforma di commercio elettronico e andare a offrirsi anche all'estero, ma uno dei rischi è quello che arrivino grandi gruppi internazionali e facciano il grosso del mercato. Allora, nel commercio elettronico ci sono molti gruppi italiani, molti operatori italiani che sviluppano la loro offerta con successo. È conosciuto al mondo intero il successo di Yux, ma anche il successo di altri operatori italiani che hanno innovato in questo business. C'è però da rilevare che da un'analisi che ho fatto recentemente, considerando i 30 principali gruppi multicanali europei, c'è soltanto un gruppo italiano. Quindi è vero, gran parte dei grandi operatori internazionali, lo dimostrano Google, Facebook, Vente Privé, piuttosto che altri, c'è una prevalenza di sviluppo mondiale da parte dei grandi giocatori, e anche nel settore dei gruppi d'acquisto evidentemente ci sono degli operatori internazionali che in qualche misura hanno una parte rilevante del mercato. È sorprendente per il fatto che questi gruppi internazionali, di grande successo peraltro, valorizzino l'offerta italiana, perché in realtà fanno un bene al piccolo dettaglio. Quindi questa coniugazione tra operatori internazionali e dettaglio in realtà è un connubio che sta valorizzando sia l'offerta che la domanda. Diciamo una cosa importante, che nonostante il grande sviluppo che c'è stato negli ultimi anni del commercio elettronico, se guardiamo quanto vale l'e-commerce sul totale del commercio, vale l'1%, giusto? Poco più. Vale l'1%, e devo dire che l'Italia come valore complessivo, abbiamo detto che quest'anno arriveremo agli 8 miliardi di euro con una crescita del 20%, siamo però gli ultimi della graduatoria europea, con 70 miliardi di euro in Inghilterra, 30 miliardi di euro in Francia e circa lo stesso valore, 8 miliardi di euro in Spagna. Quindi in realtà noi siamo molto in ritardo rispetto a quello che sta succedendo in Europa e negli Stati Uniti. Abbiamo due minuti prima di salutarci. Sono più i vantaggi per il consumatore? Ad esempio, se io abito lontano da una città, sicuramente ho indubbi vantaggi a rivolgermi al commercio elettronico. O sono più i vantaggi per chi vende, per gli operatori? Allora, dalla ricerca che abbiamo fatto risulta che i vantaggi per il consumatore sono indubbi. Accesso al prodotto, visibilità su un accesso di una gamma molto più ampia che se uno accedesse soltanto a un punto di vendita fisico, servizio, consegna alla clientela, trasparenza sul prezzo perché c'è maggiore comparabilità. Quindi i vantaggi per il consumatore sono indubbi. Sul venditore, per il venditore io definirei due o tre classi di venditori. Ci sono i grandi giocatori che hanno capito questo mercato e hanno inventato un nuovo modello di business, per intenderci alla Amazon, alla Yux, e non si può non dire che questi signori abbiano avuto successo. Peraltro, se si fa l'analisi dei gruppi online quotati in borsa, la borsa americana ha premiato con un incremento del 36% le aziende internet di e-commerce quotate in borsa, mentre la borsa ha avuto mediamente una crescita dell'11%. Quindi c'è anche una valorizzazione del valore patrimoniale. È chiaro che chi arriva in ritardo è male e non sa sviluppare un modello intelligente o puro finalizzato soltanto alle vendite online, o misto finalizzato alla multicanalità, tenendo in conto che per avere successo bisogna sapere servire bene il cliente. Questi gruppi ovviamente non hanno successo. Io ringrazio Roberto Liscia per essere stato con noi nel nostro studio qui a Milano. Buon lavoro, a presto. Grazie a voi e grazie dell'invito. E noi ci risentiamo tra pochi minuti per parlare di tablet, di smartphone e anche di ecosistemi software, perché ci sono molte cose interessanti e molte novità. Tra poco. 2024. La seconda parte di 2024, vi ricordo che potete chiamarci al nostro numero verde 824 0024 per parlare con noi. In questa seconda parte ci occuperemo di smartphone e di tablet. Abbiamo anche alcuni numeri che commenteremo tra poco. Ci sono molte novità nel settore, forse uno dei settori più interessanti degli ultimi tempi se parliamo di elettronica di consumo. Saluto Luca Figini, che è responsabile della rivista Netbooks & Laptop. Bentornato a 2024. Ciao Luca. Buongiorno a tutti, buon sabato, ciao Enrico. Senti, a proposito di tablet, oggi parliamo di tablet e di smartphone perché c'è poi una cosa che accomuna questi due prodotti, ovvero i sistemi operativi di cui poi parleremo. Però a proposito di tablet ci sono alcune novità. Abbiamo aspettato un po' a fare questa puntata perché eravamo in attesa. Nel mondo Android non arrivava quasi nulla, cioè Apple con iPad e tutto il resto. Negli Stati Uniti sì, qualcosa c'era già, ma oggi in Italia invece c'è qualche cosa di interessante. Allora, uno sguardo all'ultima settimana, alle ultime settimane. Sì, allora, dopo un periodo di praticamente dominio di Apple con pochi tablet basati su Android, finalmente con l'estate si è scaldato il mercato e arrivano numerosi nuovi prodotti, anche di brand importanti. Quindi recentemente, e arriveranno o sono già arrivati in negozio, arriveranno in questi giorni, hanno presentato Motorola Xoom, che è il primo tablet, che tra l'altro è il tablet di riferimento usato da Google per Android 3.0 ed è distribuito in esclusiva da Team a 6,99. Samsung ha risposto con il Galaxy Tab 10.1V, distribuito in esclusiva da Vodafone, a 6,49. Ce ne sono tantissimi altri. C'è l'Asus e Pad Transformer, che è un po' particolare perché è sia tablet sia netbook con una tastiera, sempre da Android 3.0 10,1 pollici. C'è l'Acer, che ne ha addirittura due, presentati due, più o meno simili, l'A500 basato su Android e uno dei pochi con Windows, forse l'unico in questo momento in Italia, il W500, che ha Windows 7 e un hardware da PC compatto, l'LG Optimus Pad, che è quello più particolare ed è anche più costoso per la verità, che ha la peculiarità di avere una doppia fotocamera da 5 megapixel che permette di registrare in 3D. Quindi sono arrivati un sacco di prodotti basati su Android, perché oggi l'ecosistema dei tablet in modo particolare è dominato da iOS di Apple e anche da Android. La stessa cosa accade anche nel mondo degli smartphone, anche se negli smartphone insomma, ci sono altri protagonisti. Pensiamo al sistema operativo del BlackBerry, pensiamo naturalmente a Symbian, che ha ancora una rilevante quota di mercato, ma anche di sistemi operativi parleremo tra poco. Allora vi ricordo il nostro numero verde per parlare con noi, per parlare di questi temi, di sistemi operativi. Siamo anche curiosi di sapere quanto la gente capisce di questi sistemi operativi, perché fino a poco tempo fa, fino a qualche anno fa, quando si parlava di sistemi operativi c'era di fatto un'unica cosa che veniva citata ed era Windows per il mondo dei computer. Oggi con lo sviluppo, la crescita, il boom degli smartphone e oggi dei tablet si sta creando una, beh, potremmo dire, frammentazione, un po' di caos, e allora cercheremo anche di fare un po' di chiarezza. Chiamateci al nostro numero verde 800 24 00 24. Ci sono altri canali che potete utilizzare, ad esempio Facebook, la nostra pagina, cercatela scrivendo 2024, oppure l'email 2024@radio24.it, e cito anche gli SMS 349-238-6666. C'è una notizia importante, ne vogliamo citarla. In settimana c'è stato il debutto in borsa di un social network, ovvero di LinkedIn, ma ce ne sarà un altro lunedì, perché debutterà il Nasdaq Yandex, che è il più importante motore di ricerca russo, motore di ricerca tra l'altro che, mi dicono gli esperti, molto interessante. Questa quotazione, come dicevo, arriva a pochi giorni da quella di LinkedIn, che mercoledì al New York Stock Exchange è schizzato di oltre 100% nel primo giorno di quotazione. Si tratta del più grande sbarco in borsa di un'azienda nata su internet dalla quotazione di Google nel 2004 ed è il primo sbarco in borsa di un social network. Ora gli esperti si dividono tra chi ricorda con preoccupazione la mania per le internet company degli anni 90, le famose .com, poi rase al suolo dallo scoppio della bolla internet, e chi guarda con fiducia ai prossimi mesi, quando sul mercato dovrebbero arrivare i pezzi da 90 del web 2.0, ovvero Facebook, Twitter, Groupon, eccetera, eccetera. Gli entusiasti pensano al potenziale che potranno esprimere queste società che hanno nei loro database, pensate, i dati di centinaia di milioni di utenti. Gli scettici invece guardano ai fondamentali, che invece non giustificano quotazioni così elevate. Per chi non lo sapesse, ricordiamo che LinkedIn è un social network specializzato nelle relazioni professionali. Ha circa 100 milioni di utenti nel mondo che lo utilizzano anche per cambiare lavoro. Adesso abbiamo alcune notizie, altre notizie della settimana. Digital News. Nella puntata del 5 febbraio abbiamo parlato di un nuovo modo di ascoltare musica che si sta diffondendo, i servizi di streaming musicale basati su internet, in the cloud, come si dice. Ad un servizio di questo tipo stanno lavorando sia Google, che ha lanciato negli Stati Uniti una versione beta che si chiama proprio Music Beta by Google. Secondo indiscrezioni, nelle ultime ore anche la Apple avrebbe raggiunto un accordo con tre delle principali etichette musicali per offrire un servizio con il quale poter ascoltare la propria musica online da computer, tablet o smartphone. Digital News. C'è un po' di preoccupazione nel mondo degli utenti Mac per un virus che si chiama con un nome sibillino, ovvero Mac Defender. Il programma si sta diffondendo e sui forum di supporto della Apple un po' in tutto il mondo ci sono molte richieste di aiuto. Digital News. Una notizia che riguarda i libri elettronici. Questa settimana Amazon ha comunicato che sul sito americano c'è stato il sorpasso dei libri elettronici su quelli tradizionali. Da aprile vengono venduti 105 ebook ogni 100 libri di carta. Digital News. Sharp e la TV giapponese NHK hanno presentato il primo TV in grado di visualizzare un segnale Super High Vision, la super alta definizione sviluppata dal broadcaster giapponese che dovrebbe debuttare nel 2020. L'immagine è, pensate, 16 volte più definita rispetto alla normale HD. Il display mostrato da Sharp è un 85 pollici a una risoluzione di 7680x4320 pixel. Digital News. Uno studio dell'Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico e della SDA Bocconi punta il dito contro l'inefficienza della pubblica amministrazione, in particolare quella locale, dove l'ignoranza informatica dei dipendenti che utilizzano il computer costa al nostro paese ogni anno oltre 205 milioni di euro. In comuni, province, regioni e altri enti locali lavorano circa 600.000 dipendenti. Si tratta del terzo comparto nel settore pubblico italiano dopo l'istruzione e la sanità. Occhi puntati il 26 e 27 maggio al G8, ospitato dalla Francia, che per la prima volta ospita anche una serie di appuntamenti dedicati a internet. Si parlerà di protezione del diritto d'autore, della diffusione di internet, del cybercrime, di libertà in rete, ma è proprio su quest'ultimo punto che si temono prese di posizione troppo rigide. A questa parte del G8 dovrebbero partecipare un migliaio di persone coinvolte a vario titolo nel mondo di internet, e tra i nomi più noti c'è Zuckerberg di Facebook, Schmidt di Google, Bezos di Amazon e Rupert Murdoch. Adesso c'è la viabilità, riprenderemo tra poco. Questo è 2024, il nostro numero verde per chiamarci, 824 0024. Numbers. 2024. Numbers. Sono stati 7,3 milioni gli utenti internet mobili tramite iPhone e smartphone nel mese di marzo 2011. Di quanto è cresciuta la quota di utenti rispetto allo stesso mese del 2010? Numbers. 2024. Nella nostra rubrica Numbers vi abbiamo domandato quanto è cresciuta la quota di utenti rispetto a un anno precedente di quelli che utilizzano lo smartphone per navigare in internet. È cresciuta, pensate, rispetto a marzo 2010 del 50%. Secondo il Politecnico di Milano hanno navigato su rete mobile 11 milioni di italiani se si includono anche le chiavette. Togliendo le chiavette si tratta di 7,3 milioni di utenti. E c'è un dato interessante e positivo, visto che ultimamente si dice spesso che il boom di traffico generato dai dispositivi mobili sta mettendo in serie difficoltà le reti mobili. Beh, sappiate che molti utenti si spostano da una navigazione fatta con le chiavette tramite il proprio notebook o netbook e si spostano magari ad un tablet, e il traffico generato da un tablet, così come accade per lo smartphone, è più basso rispetto a quello generato da un computer portatile tramite chiavetta. Quindi questo è anche un beneficio per le reti, è un dato sicuramente molto molto interessante. Ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis, che i nostri ascoltatori conoscono bene perché sta facendo il giro dell'Italia per scoprire che cosa dicono i consumatori della tecnologia. Parliamo naturalmente di elettronica di consumo, oggi di smartphone e di tablet. Allora, Maria Chiara, dove ti trovi questa settimana? Enrico, buon pomeriggio. Oggi siamo al punto vendita troni del centro commerciale Euroma 2. qui abbiamo parlato con chi gli smartphone e i tablet li vende e abbiamo voluto capire proprio come si muove il mercato, soprattutto rispetto anche alle ultime novità. Dunque, per quanto riguarda gli smartphone, l'interesse è tanto, ci hanno raccontato. Sempre più spesso, infatti, i consumatori chiedono informazioni sui prodotti che devono ancora uscire, per esempio. Però crescono anche le vendite dei tablet. Si stanno addirittura, ci dicono qui, sostituendo ad altri prodotti di informatica. In particolare, questo ce l'ha raccontato il direttore del punto vendita Troni del centro commerciale Roma 2, Claudio Pes. La sua è la prima delle due interviste che vi proponiamo adesso. La seconda voce che sentirete, invece, è quella di Jacopo Baleani, che invece è il capo settore dei reparti di informatica e tecnologia del punto vendita. Sentiamo le interviste. Avete notato un calo di vendite di netbook a favore dei tablet? Assolutamente sì, i netbook stanno perdendo quote di mercato. Quanto vuole spendere in media un consumatore per uno smartphone? Un prodotto fa il mercato che è di 699, che è l'iPhone 4, mentre tutta l'altra parte del mercato la fanno i prodotti più bassi dalle 250 in su. Tablet fondamentalmente adesso serve per navigare in internet e sono più che altro le persone che lo utilizzano per uno scopo di business, quindi molta posta elettronica. Pacchetto Office importantissimo, che è una pecca dell'iPad che non è incluso all'interno del sistema operativo nativo, anche se poi comunque è acquistabile. E invece le telefonate? Partendo dal presupposto che sono anche difficili da fare perché sono molto grandi, c'è solo un prodotto che fa chiamate adesso come adesso, per il Samsung, il Galaxy Tab da 7 pollici. Ogni tanto abbiamo visto anche qualche persona, un po' tutti in giro, che se lo mettono all'orecchio, però è scomodo da portare. Un telefono non va sostituito con un tablet. Quindi chi ha un tablet spesso ha anche uno smartphone? Normalmente sì, e molte case produttrici stanno facendo delle scelte intelligenti, facendo uscire dei tablet anche senza la possibilità di inserire SIM, perché col fatto che ci sono molti smartphone a partire da Android, arrivare fino ad iPhone, fino adesso, che si possono usare come modem sfruttando la stessa navigazione internet che si paga già col proprio gestore, è inutile pagare una doppia connessione. Gli accessori per i tablet, quindi tastiere, sì, sono richiesti? Sono richieste le custodie particolari che sono a forma di libretto e ripiegandosi ci danno anche un supporto, può essere comodo per vedere video su YouTube, film. Da Roma ci rispostiamo nel nostro studio di Milano per dare la linea a Carolina Milanese, che è responsabile mondiale delle ricerche sul mercato dei terminali mobili a Gartner, collegata con noi da Londra. Bentornata 2024. Un piacere come sempre, Enrico. Dunque Carolina, vorrei partire dai sistemi operativi, perché io ho detto che oggi vogliamo parlare naturalmente di smartphone e anche di tablet. Sul mercato dei tablet ci sono molte novità e il sistema operativo è un po' il trait d'union di questi due prodotti di cui si parla molto, e dicevo anche poco fa che fino a qualche anno fa si parlava di un sistema operativo che era quello dei computer, era Windows. Oggi invece il problema del sistema operativo è un problema molto sentito, perché c'è molta frammentazione, perché stanno crescendo, almeno per i terminali mobili, due ecosistemi. Voi avete pubblicato in settimana i dati di vendite dei telefonini in generale, di smartphone anche in particolare, ma naturalmente tutte le volte che Gartner pubblica questi dati c'è sempre molta attenzione sui sistemi operativi. Da questo punto di vista, quali sono le novità? Ma diciamo che è un trend che continua, quindi una continua crescita di Android come sistema operativo e la solidificazione di iOS, che è il sistema operativo di Apple, con dall'altra parte un declino di Symbian a causa della decisione di Nokia di così entrare in business con Microsoft e usare Windows Phone 7 come piattaforma andando avanti, ma anche in generale una Symbian che diminuisce perché Nokia come venditore sta avendo dei problemi. Queste diciamo quindi Windows, Android e iOS, i tre principali sistemi operativi, e poi hai il RIM, che è in una fase di transizione tra BlackBerry di adesso a QNX, che tornando al tuo discorso del link tra il tablet e lo smartphone, è appunto la piattaforma che hanno messo nel playbook e che poi arriverà agli smartphone. Noi crediamo profondamente che c'è un grande interesse del consumatore di avere la stessa piattaforma sui due prodotti per fare parte dello stesso ecosistema, per poter sfruttare le stesse applicazioni, non pagarla una volta sola perché hai ovviamente un'applicazione diversa per il tablet perché ha uno screen molto più grande, ma per un discorso proprio di familiarità e di sfruttare quelle che sono le features dell'applicazione. Per esempio, se tu stai facendo un gioco e hai dei punteggi o hai dei tips che ti aiutano a fare il punteggio superiore, questo gioco e tutto il, diciamo, il tuo setting viene trasferito da un prodotto all'altro. La stessa cosa con un film: se stai guardando un film lo puoi lasciare sull'iPhone e riprenderlo sull'iPad e riparti da dove l'hai lasciato. Queste sono le cose che puoi fare se hai la stessa piattaforma. Senti, questa frammentazione di sistemi operativi crea più problemi ai consumatori o alle aziende o agli sviluppatori di software che devono produrre software per tutte queste piattaforme? Ma secondo me, guarda, al consumatore hai ancora due grossi mercati. Il consumatore di massa, per cui la piattaforma, diciamo, è una scelta secondaria, no? Scelgono gli attributi del telefono o del tablet e guardano l'ecosistema, guardano che cosa l'ecosistema dà sia a livello di usabilità che a livello di applicazioni e servizi, e poi si rendono conto di che cos'è la piattaforma dietro. Per gli sviluppatori, adesso come adesso, nonostante vediamo questa frammentazione, perché ci sono altre che non abbiamo ancora nominato, WebOS, c'è MAMO, c'è BADA, quindi ce ne sono molte, però la realtà è che sono tre quelle grandi, e attraverso questi tre sistemi operativi, per un operatore di fascia medio-alta, nel senso che è più un'azienda che non l'operatore singolo che fa l'applicazione dalla cucina di casa, non c'è grossa difficoltà di riformattare, se vuoi, l'applicazione. Però fai delle scelte in base a quello che ti può dare l'applicazione a livello di ritorno di investimento per quante applicazioni vendi, no? Quindi guardi la piattaforma e dici: vado con Android perché adesso hanno la quota di mercato più alta, oppure dici: vado con iPhone e quindi guardo iOS come piattaforma perché lo store è, secondo noi, lo store migliore che c'è al momento sul mercato come facilità di trovare l'applicazione, perché Apple aiuta gli sviluppatori ad integrare advertising, per esempio. Quindi dipende da che ritorno di investimento vuoi come sviluppatore. Bene, adesso ci fermiamo per qualche minuto, c'è la pubblicità, 2024 vi aspetta tra poco. 2024. 16 e 30 minuti tra pochi secondi. Vi ricordo che mercoledì prossimo, a partire dalle 9, si terrà a Milano, nella sede del Sole 24 Ore, il Forum Digital Media. Per maggiori informazioni trovate un link nella home page del sito internet del Sole 24 Ore. Luca Figini, dicevamo all'inizio che ci sono alcune novità che ci hanno anche indotto a fare una trasmissione dedicata ai tablet, perché la scelta dei consumatori si sta ampliando. Individuiamo i due o tre prodotti più interessanti nel mondo Android, giusto? Perché le novità arrivano da lì. Sì, fondamentalmente le novità sono tutte incentrate su Android. Citerei il Motorola Xoom. Molto atteso, ne abbiamo parlato molto. Molto atteso, sì, presentato al CES inizio anno. Perché è atteso? Perché, soprattutto perché è il tablet che Google sta usando come riferimento, sia per le presentazioni, sia per lo sviluppo della piattaforma futura, e quindi dei nuovi aggiornamenti e degli aggiornamenti ad Android che arriveranno nel prossimo futuro. Quindi è il campione di questo momento, perché è una piattaforma multimediale evoluta. Ha un display da 10,1 pollici in alta risoluzione, ovvero 1280x800 pixel di risoluzione. Permette di navigare sia sulle reti Wi-Fi sia sulle reti 3G, non a caso distribuito in esclusiva da TIM, legato anche agli abbonamenti per la navigazione in mobilità. È un peso abbastanza ridotto, perché stiamo parlando di circa 730 grammi per 32 giga di memoria. Anche se sui pesi, io tutte le volte che prendo in mano una cosa del genere mi aspetto che sia sempre più leggera, però questa è una tendenza. Oltre allo Xoom c'è un altro prodotto atteso di cui si è parlato molto, LG, l'Optimus Pad. Se ne è parlato molto per due ragioni fondamentali. Innanzitutto è il primo che utilizza un display da 8,9 pollici in commercio e che quindi questo tipo di polliciaggio è un po' una via di mezzo fra quelli piccoli da 7 pollici e quelli un po' più grandi da 10 pollici e cerca di combinare sia una buona area di visualizzazione sia le dimensioni compatte e il peso abbastanza ridotto. Stiamo parlando di circa 150 grammi in meno rispetto allo Xoom, ma soprattutto la novità non è tanto sul fronte quanto sul retro, perché ospita queste due videocamere, queste due fotocamere da 5 megapixel che operano in simbiosi insieme a un software proprietario di LG e che permette di registrare video in 3D nei formati diffusi, più diffusi, ovvero sia quelli nuovi che prevedono gli occhialini attivi passivi, sia l'anaglifo che è quello classico con gli occhialini rosso e verdi, blu e rosso, eccetera. Non ha, a differenza di quello che si legge in internet, non ha un display 3D, cioè lui può registrare i video in 3D, per poi poterli vedere bisogna collegarlo o scaricare il film a un televisore 3D e avere tutto l'apparato 3D, poi quindi occhialini e quant'altro. Sì, certo, vabbè, diciamo che comunque è una tendenza di una cosa che sta arrivando anche sui tablet. Abbiamo individuato poi un prodotto che sta a metà tra il tablet e il netbook, poi parliamo anche della cannibalizzazione eventuale di questi due mercati, Luca. Sì, l'Asus e Pad Transformer è proprio la via di mezzo fra chi è ancora indeciso su cosa fare, anche per il prezzo, perché costa 499 euro, quindi è un prezzo da netbook ma anche da tablet. Display di 10,1 pollici, non ha connessione 3G ma può navigare solo in wifi e a fronte di questo del tablet nudo e crudo si può collegare una dock con una tastiera QWERTY e quindi in qualunque momento staccarli e utilizzarli come se fosse un portatile. La dock è un'espansione, diciamo, chiamiamola così. Quanto costano queste cose? Costano ancora un pochino, nel senso che si va dall'apice che ha rappresentato dall'Optimus Pad, che costa 899 euro, un prezzo francamente coraggioso. Una follia. Sì, sì, sì, sì, è molto aggressivo in termini di prezzo, nel senso aggressivo, nel senso che sul portafoglio. Oppure? Sia quelli più bassi, per esempio l'Asus Transformer senza tastiera costa 399, quindi circa 80 euro in meno dell'iPad. Prezzo abbordabile. Lo Xoom di Motorola? 699. Che è molto. Vorrei tornare a Londra da Carolina Milanesi. Uno dei problemi dei nuovi Android che stanno effettivamente arrivando sul mercato ad un ritmo molto elevato è forse il prezzo, cioè non costano troppo queste cose? Sì, costano troppo per quello che è stato messo come prezzo, diciamo come benchmark dell'iPad. Il problema che però hanno i venditori è che non riescono ancora a dare un valore aggiunto al consumatore che non venga dall'hardware. Quindi tu hai un venditore che deve fare concorrenza all'iPad, che ha un prezzo molto aggressivo, e aggressivo in senso buono, non come diceva Luca sul prodotto precedente, e non riescono a fare altro che o a mettere più tecnologia, vedi LG con 3D per esempio, oppure riescono a malapena a pareggiare con la tecnologia e a darti allo stesso prezzo l'hardware che ti dà l'iPad. Questo è il problema, è che non riescono ad avere un ecosistema più forte, perché se guardi al numero delle applicazioni su Android stanno ancora crescendo, o un appeal che vada oltre all'hardware. Questo è un problema particolare poi per chi fa PC, per chi viene dal mondo dei PC come Asus piuttosto che Acer, piuttosto che Lenovo, che conoscono quello, che prendono praticamente il software che c'è, che è Microsoft, e non hanno mai avuto esperienza a creare un ecosistema. I produttori sono consapevoli di questo, visto che tu parli tutte le settimane con chi produce e anche con i team di sviluppo di questi prodotti, hanno ben chiara questa cosa? Sì, hanno molto chiara questa cosa, però hanno anche chiaro il fatto che non è così semplice, perché se guardi per esempio HP è un ottimo esempio di un'azienda che sa chiaramente che devono creare un ecosistema di intorno all'hardware, che hanno delle idee chiare di dove vogliono portare il loro sistema operativo, dagli smartphone ai tablet, persino ai PC, ma che si stanno muovendo in maniera molto lenta perché è complicato. Sì. Davide Rossi, saluto Davide Rossi, che è il direttore generale dell'Associazione Italiana che rappresenta la grande distribuzione di elettronica di consumo. Bentornato Rossi. Grazie, buongiorno. Sul mercato, e naturalmente guardiamo al mercato italiano, che cosa sta accadendo? Cioè, questo tipo di prodotti sta facendo bene al mercato? I consumatori sono interessati? Ma c'è un aspetto che a noi ha colpito molto. Noi facciamo di tanto in tanto dei piccoli sondaggi senza la pretesa di essere scientificamente validi, ma insomma ci servono per razionalizzare un po' le sensazioni che ci arrivano dai punti vendita. E sembra che insomma il dato principale che ci viene dal pubblico è che la gran parte degli acquirenti di tablet lo faccia per il divertimento. Cioè, addirittura il 75% ci dice che lo utilizza per lo svago e solo il 41% di quel 75% dice che lo utilizza anche per il lavoro. Quindi sostanzialmente nessuno lo compra per lavorare e tutti lo comprano per divertirsi sostanzialmente. E questo è un dato, secondo me, positivo e interessante, perché apre scenari anche di, come dire, dialogo con il consumatore piuttosto interessante. Quindi sta capitando. A voi risulta che questo tipo di prodotto, un po' l'ha detto il direttore del centro commerciale che abbiamo ascoltato collegandoci con Maria Chiara Grandis da Roma, che ci sia un po' di cannibalizzazione del mercato dei computer portatili? Questo è un po' inevitabile, insomma le offerte sono tante, rischia anche ovviamente di non essere facile per un consumatore rivolgersi da una parte o dall'altra. È molto importante l'attenzione che i nostri addetti di punto vendita daranno a chi si presenta lì e vuole avere delle indicazioni chiare, spiegando quali sono le proprie esigenze e le proprie aspettative. Ecco, mi immagino che questa percentuale che abbiamo visto, che mi ha veramente colpito, della quale abbiamo parlato anche in un piccolo comunicato stampa, c'è un 10% che dice: io l'ho comprato solo per Facebook. Ecco, questo è il pubblico che probabilmente non avrebbe comprato assolutamente niente. Sì, quindi dice, si allarga un po' il mercato. Io penso di sì, penso che se nel breve periodo questa cannibalizzazione certamente c'è, noi abbiamo un grande mondo davanti di potenziali acquirenti che, una volta che avranno le possibilità di spesa, una volta che non ci saranno altre purtroppo esigenze di vita quotidiana da dover fronteggiare, penseranno che questo è un bellissimo metodo per utilizzare uno strumento elettronico per il divertimento. Sì, Rupert Murdoch, quando ha lanciato The Daily, un magazine digitale pensato per l'iPad, ha detto: negli Stati Uniti tutti coloro che potranno compreranno un tablet. Nel mondo in generale, Carolina, che cosa succede? Succede la stessa cosa che ci ha descritto Rossi? La cannibalizzazione la vediamo e secondo me non è tanto un discorso di voler fare le stesse cose, è proprio va a fonte di quello che diceva Rossi del fatto che i tablet sono comprati per l'intrattenimento. Alcuni sì, alcuni acquirenti vogliono anche essere, diciamo, produttivi e quindi portarlo poi nell'ambito del lavoro, ma la differenza tra un netbook e il tablet, al di là della user interface di touch, è che il netbook non ti ha dato un use case, uno scenario diverso da quello del PC. Praticamente ti dà un form factor più piccolo, un prezzo più basso, ma ci fai le stesse cose che ci fai sul PC. Quando arrivi a un tablet e hai l'opportunità di tutte le applicazioni che ci sono nel mercato, questo al momento dicevo un pochino di più per iPad che non per l'Android, ma arriveranno anche su Android, è questione di tempo, ci si apre un mondo diverso, e è questo che i consumatori stanno guardando. Sono le diverse cose, da Facebook e tutto il resto di social networking che puoi fare, a guardare video, a fare giochi e via dicendo. Il netbook ti lascia diciamo uno scenario più limitato rispetto a quello che puoi fare. Voi avete fatto anche un'analisi sulle vendite degli smartphone, e allora, prima di salutarti, volevo farti citare anche alcuni dati. Nokia rimane ancora numero uno, ma perde una quota di mercato molto importante. Diciamo che qualche anno fa raggiungeva quasi il 50%, poi fino a qualche mese fa era vicina ad un terzo del mercato, oggi siamo a un quarto del mercato, al 25%. Dietro a Nokia, che comunque continua a vendere in un trimestre più di 100 milioni di pezzi, che cosa accade e che cosa è interessante segnalare? È interessante vedere quanto i venditori di prima fascia, che sono Samsung e LG, stanno sentendo la pressione che arriva sia da smartphone, da venditori di smartphone come HTC, Apple e RIM, ma anche dai cinesi, Huawei e ZTE, che questo trimestre sono entrati fortemente nei top 10 del mercato. Quindi un mercato che si sta muovendo più e più via da quel numero 1 e numero 2 che controllano praticamente il 60-70% del mercato, ha invece un discorso che vede fasce di mercato più piccole e più così diversificate tra diversi venditori. E che cosa ci dici di quel fenomeno che abbiamo descritto molte volte, dei cosiddetti altri, che sono soprattutto cinesi, che hanno una quota del mercato del 36,2%? Questo trend continua. Questo trimestre abbiamo aggiunto delle compagnie nuove al numero di aziende che abbiamo guardato nel passato, e sono 25 nuove aziende che abbiamo visto, che sono tutte operanti in Asia, particolarmente in Cina, che appunto sono chiamate white box, no? Che scatole bianche, perché non è una brand che conosci, ma che fanno quelle più grandi, dai 3 ai 5 milioni di pezzi al trimestre, che non è tanto meno di quello che ti fa oggigiorno una Motorola o una Sony Ericsson. È incredibile, sono nel trimestre 154 milioni di pezzi, ma stiamo parlando di produttori che vendono soprattutto in Cina, Asia in generale, o anche in Europa, Stati Uniti, non eccetera? Non ancora in Europa e Stati Uniti, perché il riuscire ad essere ammesso, diciamo, alla lista del venditore che l'operatore ti vende è molto difficile, ma anche al di fuori di Cina e Asia vediamo Russia, Ucraina, anche il Medio Oriente, i paesi dell'Africa come l'Egitto, il Kenya, che sono tra quelli, il Marocco, tra quelli un pochino più avanzati, e l'America Latina. Bene, io ringrazio Carolina Milanesi per essere stata con noi. Carolina, immagino che la difficoltà di tenere d'occhio questo mercato cresca mese dopo mese, perché già tu ci hai citato queste nuove 25 compagnie cinesi, quindi sia sempre più complesso questo mercato. A presto e buon lavoro. A presto, arrivederci. Grazie dunque a Carolina Milanesi, che è responsabile mondiale, collegata con noi da Londra, per le ricerche sul mercato dei terminali mobili, mobile devices di Gartner, che prendiamo sempre come punto di riferimento ad ogni trimestre quando escono i nuovi dati. Prima di salutare Davide Rossi, volevo chiedergli, oltre che un polso del mercato, se nei prossimi mesi, diciamo, l'arrivo di nuovi prodotti basati su Android, voi pensiate possa dare una spinta ulteriore al mercato o non tanto? Onestamente, non per fare gli ottimisti, ma inevitabilmente sì, anche per una ragione molto basata su dei dati concreti. Il 94% di chi sta utilizzando tablet dice che sono facili, solo un 6% dopo averli acquistati si trova in difficoltà. Quindi la facilità d'uso è uno strumento di marketing più forte di qualunque altra cosa. Vediamo tante volte questi parlamentari annoiati nell'aula della Camera del Senato, pure quelli sono in grado di giocare con questi apparecchi. Quindi io penso che la facilità d'uso e sempre più applicazioni facili, comprensibili, che l'amico ti fa vedere perché ce l'ha già ed è in un attimo che si riesce a utilizzare al meglio il proprio apparato, saranno uno strumento straordinariamente forte per l'evoluzione del mercato. Bene, grazie per essere stato con noi, buon lavoro, a presto. Le 16:45 minuti, viabilità, riprendiamo tra poco. 2024. Stiamo parlando di tablet, abbiamo parlato anche di smartphone in questo mercato che si complica sempre di più. Sono le 16:47 minuti, questo è 2024, io sono Enrico Pagliarini, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Dicevamo, la facilità d'uso di questi strumenti sta allargando il mercato. Luca Figini, in realtà però allargherà il mercato, potremmo dire, probabilmente, perché non sono ancora tantissimi gli utenti di questo prodotto. Io pensavo anche che oggi pensavo di scatenare più gli ascoltatori, invece vedo che la reazione è molto timida. Cioè, stiamo parlando ancora di una nicchia? Sì, sì, assolutamente. Il tablet attira, è trendy, è bello averlo, è bello vederlo, però poi alla fine, quando bisogna spendere tutti quei soldi per acquistarlo, uno ci fa ancora un po' un ragionamento un po' più approfondito, anche perché è vero che c'è il rischio di cannibalizzazione, però se il tablet costa 700 euro o 500 euro, il netbook costa la metà, e quindi prima di approcciare il tablet, certo, ci si tu ragiona. Dici, compro un netbook che ha la tastiera, fa quasi tutto, so quello che fare. Sì, sì. Per cui in Italia, ti dico, sono stati venduti circa 150.000 tablet, considerando che circa l'80-90% iPad nel 2010, e dato Sirmi, fino ad aprile 2011 ne sono stati venduti altri 166.000, quindi stiamo parlando di un parco che... Poco più di 300.000. 400.000, di cui la maggior parte sono iPad, per una questione che è bello averlo ed è interessante possederlo. E anche perché fino adesso diciamo che di grandi alternative non ce ne sono state, oggi le alternative sono offerte a prezzi, devo dire, estremamente elevati, perché insomma, uno deve proprio piacere gli Android. Sì, sì, comunque come paragone prendiamo il mercato degli Stati Uniti, che è il mercato più maturo in questo senso, è quello che fa i volumi più alti, e lì comunque la penetrazione del tablet sfiora il 5%, quindi è ad alta diffusione nelle grandi metropoli, però poi fondamentalmente il tablet in questo momento sta definendo una tipologia di utente che è molto ben precisa, e che, cioè, è un utente che è sia volenteroso di sperimentare un oggetto nuovo e un nuovo modello di utilizzo più semplice, il visual computing più intuitivo con le dita e quant'altro. Però è anche, e questa è la cosa interessante che interessa secondo me maggiormente i produttori e gli sviluppatori di applicazioni, è un utente che è pronto a spendere, in applicazioni, è pronto a spendere in accessori. Fai conto che c'è un dato che dice che oltre al tablet, chi possiede un tablet è disposto a spendere un centinaio di euro tra accessori che sono la custodia, la pellicola protettiva del display, le applicazioni come i giochi e di produttività personale, quindi è interessante anche per quello. Sì. Senti, prima ci siamo collegati con Maria Chiara Grandis, torneremo tra poco, che è collegata con noi dal centro commerciale Trony Euroma 2 di Roma, che intervistando uno degli addetti alle vendite ci diceva una soluzione interessante è quella di comprare un tablet che abbia solo il wifi e poi utilizzare uno smartphone per connettersi alla rete di telefonia mobile. Questo può essere un motivo che ci spinge a suggerire che effettivamente è quasi meglio comprare un tablet che abbia solo il wifi, perché in qualche modo c'è la possibilità di collegarsi a internet anche senza avere la connettività 3G. Sì, sì, sì, questa dichiarazione fa eco con un'analisi che ha fatto in questa settimana Yang-Se Wang, che è il CEO di Nvidia, che appunto dice che i tablet costano ancora troppo, e uno dei motivi è perché i produttori vogliono a tutti i costi mettere il modem 3G, che quindi basterebbe il wifi per poter navigare. È assolutamente vero questo. Torniamo alla radice, vediamo cosa serve il tablet, per cosa viene utilizzato. Le persone continuano e sono incentivate a comprare uno smartphone che fa il cosiddetto tethering, ovvero è quella funzione che ti permette di poi di navigare come se fosse un modem per un altro dispositivo. E quindi in questo modo si potrebbe creare realmente un circolo virtuoso, tenendo bassi i prezzi dei tablet, abbassando il ticket di ingresso sul nuovo dispositivo e utilizzando quello che è già esistente. Sì. Infatti mi è piaciuta quella frase, perché era azzeccata proprio quello che io penso, cioè compro un tablet che abbia solo il wifi e per il resto uso lo smartphone oppure altre soluzioni. Ringrazio Luca Figini, che è responsabile di una rivista che tra l'altro in questa edizione cita proprio nel titolo principale iPad 2 contro tutti, a dimostrazione che c'è un punto di riferimento e tutti gli altri che ci provano. La rivista è Laptop and Netbook, anche se io consiglio di metterci da qualche parte la parola tablet. Presto. Grazie Luca, ciao, a presto. Grazie a voi, buona giornata. Sono le 16:52 minuti, ci colleghiamo con Maria Chiara Grandis. Maria Chiara, allora, qualche sensazione dal pubblico? Sì Enrico, perché se in studio avete parlato di sistemi operativi, lo abbiamo fatto anche noi qui al punto vendita Trani del centro commerciale Euroma 2. E questo perché ci siamo accorti che sta crescendo l'attenzione dei consumatori proprio per questo aspetto e in particolare riguardo gli smartphone. Ce l'hanno fra l'altro confermato anche gli addetti alle vendite. Questo perché si dice lo smartphone oggi è un prodotto che si usa per così dire a 360 gradi e allora chiaramente chi lo acquista vuole sapere come sfruttarlo al meglio, dall'invio dell'email all'utilizzo per esempio del navigatore. E allora ecco l'approccio dei consumatori ai sistemi operativi per smartphone e tablet nelle voci che abbiamo raccolto. Sì, è una cosa che guardo. Lei quale sistema operativo ha scelto? Quello della Apple. Ritengo che sia il migliore sul campo, anche se comunque sia Google con Android sta facendo bene. iPhone con il suo sistema operativo. Ed è soddisfatto? No, perché non è aperto, quello è abbastanza chiuso e tutto deve essere pagato. Trova che ci siano troppe applicazioni a pagamento. I prezzi forse non sono esagerati, però questo fatto che ogni cosa che tu hai la devi pagare, insomma. Si informerà anche sul sistema operativo? Sì, anche se sceglierò Android quasi sicuramente, perché sono per il software basato su Linux, che esprime anche un concetto di libertà rispetto ai software tradizionali, anche se ultimamente è diventato molto commerciale anche quello. Beh, potremmo fare una trasmissione sul concetto di apertura, perché non tutto quello che è basato su Linux è poi così aperto. Però parleremo anche di questo. Sono le 16:54 minuti, tra poco GR24, poi lo sport su Radio 24. Grazie per la collaborazione tecnica a Fabio Cantadori e anche a Margherita Frarelli, che si è occupata di un po' di cose in regia e in redazione. Grazie anche a Giorgio De Luca. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, vi aspetto la prossima settimana, ci occuperemo di applicazioni, un grande successo ha avuto una recente puntata sul mondo delle apps, allora vi daremo alcuni consigli e poi sentiremo anche la vostra voce. Tra poco sarà disponibile online sul nostro sito internet la versione podcast, il file MP3 della nostra trasmissione. Grazie per la vostra attenzione, buon ascolto con i nostri programmi. 2024. 31 seconds.